Poiché ogni volta che si apriva il portone, la portinaia premeva un pulsante che illuminava elettricamente le scale e non c'erano inquilini che non fossero rincasati, lasciai immediatamente la cucina per tornare a sedermi in anticamera, a spiare il punto in cui la tenda un po' troppo stretta, che non copriva del tutto la porta a vetri del nostro appartamento, lasciava filtrare la pallida striscia verticale formata dalla semioscurità delle scale. Se di colpo quella striscia si fosse tinta d'un biondo dorato, sarebbe stato segno che Albertine era entrata giù da basso e 2 minuti dopo l'avrei avuta accanto. Nessun altro poteva più venire a quell'ora. Restavo lì, incapace di staccare gli occhi dalla striscia che s'ostinava a restare pallida. Mi sporgevo in avanti per essere sicuro di veder bene, ma avevo un bel guardare. L'opaca linea verticale, a dispetto del mio desiderio appassionato, non mi dava l'inebriante allegrezza cui mi sarei abbandonato se l'avessi vista mutarsi per un incantesimo subitaneo e significativo in una luminosa sbarra d'oro. Quanta inquietudine da parte mia a causa di quella stessa Albertine alla quale durante la serata da Germain non avevo pensato nemmeno per 3 minuti. Ma risvegliando sentimenti d'attesa provati un tempo per altre fanciulle, soprattutto per Gilbert, le volte che tardava ad arrivare, la possibile privazione di un semplice piacere fisico mi infliggeva una crudele sofferenza morale. Mi rassegnai a tornare in camera mia. Françoise mi seguì. Ritenevo ormai inutile finito il ricevimento, la rosa che portavo infilata all'occhiello, e fece per levarmela. Il suo gesto, ricordandomi che Albertine forse non sarebbe più venuta e costringendomi così a confessare che desideravo essere elegante per lei, mi provocò un'irritazione acuita dal fatto che, svincolandomi bruscamente, sgualcì il fiore e Françoise commentò: «Era meglio lasciarmelo togliere che sciuparlo così». Ogni sua minima parola, d'altronde, mi esasperava. Nell'attesa, l'assenza di quel che si desidera ci fa soffrire a tal punto da renderci insopportabile qualsiasi altra presenza. Quando Françoise uscì dalla stanza, pensai che era davvero seccante, per arrivare poi ad avere simili scrupoli di eleganza nei suoi confronti, essermi presentato tante volte ad Albertine con la barba malfatta, addirittura non fatta da diversi giorni, le sere in cui le permettevo di venire per ricominciare le nostre effusioni. Sentivo che, incurante di me, mi lasciava solo. Per abbellire un po' la mia stanza nell'eventualità che Albertina alla fine venisse, rimisi sul tavolo accanto al letto per la prima volta dopo anni, poiché era uno degli oggetti più graziosi che possedessi, il portacarte ornato di turchesi che Gilbert m'aveva fatto per raccogliervi l'opuscolo di Bergotte, e che per tanto tempo m'ero tenuto vicino, dormendo insieme alla bilia d'Agata. Ma non meno forse della perdurante assenza di Albertine, la sua contemporanea presenza in un altrove che lei evidentemente aveva trovato più piacevole e che io non conoscevo, mi era causa d'un sentimento doloroso suscettibile di trasformarsi ad onta di quello che avevo detto a Swann appena un'ora prima circa la mia incapacità ad essere geloso, e qualora avessi visto la mia amica a intervalli più brevi, in un bisogno ansioso di sapere dove, con chi passasse il suo tempo. Non osavo mandare a prendere notizie a casa di Albertine, era troppo tardi, ma nella speranza che, andata forse a cena con qualche amica in un caffè, avesse l'idea di telefonarmi, girai il commutatore e ristabilì la comunicazione fra il centralino e la mia camera, interrompendo il contatto con la portineria, cui a quell'ora era abitualmente collegato. Avere un ricevitore nel piccolo corridoio su cui s'affacciava la camera di Françoise sarebbe stato più semplice, di minor disturbo, ma inutile. I progressi della civiltà consentono a ciascuno di manifestare qualità insospettate o nuovi vizi, rendendosi così più caro o più insopportabile ai propri amici. Per esempio, l'invenzione di Edison aveva consentito a Françoise d'acquisire un difetto in più, quello di rifiutarsi, per quanto comodo o urgente potesse essere, di far uso del telefono. Quando ci disponevamo ad insegnarglielo, trovava sempre il modo di svignarsela, come altri al momento della vaccinazione. Perciò il telefono era stato installato nella mia stanza e per evitare che disturbasse i miei genitori, la suoneria era stata sostituita con una semplice raganella. Temendo di non sentirla, mi immobilizzai al punto che per la prima volta da mesi notai il tic-tac della pendola. Françoise venne a sistemare qualcosa. Aveva voglia di parlare con me, ma io detestavo quella conversazione, sotto la cui continuità uniformemente banale i miei sentimenti mutavano di minuto in minuto, passando dal timore all'ansia, dall'ansia alla delusione totale. In contrasto con le parole vagamente soddisfatte che mi credevo in obbligo di rivolgerle, sentivo gravare sul volto una tale afflizione che sostenni di soffrire d'un reumatismo per giustificare il disaccordo fra la mia simulata indifferenza e quell'espressione dolorosa. Inoltre, temevo che le parole di Françoise, per quanto pronunciate sottovoce, ma non a causa di Albertine, già che riteneva passata da un pezzo l'ora del suo possibile arrivo, rischiassero di non farmi udire la chiamata salvifica che poi non si sarebbe ripetuta. Finalmente Françoise andò a dormire. La spinsi fuori con rude dolcezza, perché il rumore della sua uscita non coprisse quello del telefono. E mi rimisi ad ascoltare, a soffrire. Quando aspettiamo il doppio tragitto, dall'orecchio che raccoglie i rumori alla mente che li spoglia e li analizza, e dalla mente al cuore cui essa trasmette i risultati di tale analisi, è così rapido che non riusciamo nemmeno a coglierne la durata e ci sembra di ascoltare direttamente col cuore. Ero torturato dall'incessante ritorno del desiderio, sempre più ansioso e mai realizzato, di udire il segnale della chiamata. Poi, al culmine di una tormentata ascensione nelle spirali della mia angoscia solitaria, dal fondo d'una Parigi popolosa e notturna, fattasi ad un tratto vicina, affiancatasi alla mia libreria, sentii di colpo, meccanico e sublime, come nel Tristano, lo sventolio della sciarpa o l'oboe del pastore, il ronzio di trottola del telefono. Mi precipitai, era Albertine. «Non vi disturbo telefonandovi un'ora simile?» «Ma no», risposi soffocando la mia gioia. Se accennava la circostanza dell'ora indebita, era sicuramente per scusarsi di venire adesso, così tardi, non perché non sarebbe venuta. «Venite?» chiesi con tono indifferente. «Ma no, se non ne avete necessità assoluta». Una parte di me, cui l'altra anelava a ricongiungersi, era in Albertine. Bisognava che venisse, ma non gliene parlai subito. Poiché eravamo in comunicazione, mi dissi che avrei sempre potuto all'ultimo momento costringerla o a venire da me o a lasciare che corressi io da lei. «Sì, sono dalle parti di casa mia», aggiunse Albertine, «è lontanissimo da casa vostra. Non avevo letto bene il vostro biglietto, l'ho appena ritrovato e ho temuto che mi steste aspettando». Sentivo che mentiva e adesso, nella mia rabbia, più ancora che per il bisogno di vederla, era per quello di disturbarla che volevo obbligare Albertine a venire. Prima però mi piccavo di rifiutare quel che avrei cercato d'ottenere qualche istante dopo. Ma dov'era? Alle sue parole si mischiavano altri suoni. La tromba d'un ciclista, la voce d'una donna che cantava, una fanfara lontana, risuonavano non meno distintamente della cara voce, come per mostrarmi che accanto a me in quel momento c'era proprio Albertine nel suo ambiente attuale, come una zolla di terra assieme alla quale si fossero prelevate tutte le graminacee che la circondavano. I rumori che sentivo erano gli stessi che colpivano anche il suo orecchio e stornavano la sua attenzione. Brandelli di verità, estranei all'argomento, quanto più inutili in sé, tanto più necessari a rivelarci l'evidenza del miracolo. Elementi sobri e affascinanti, descrittivi di qualche strada parigina, elementi penetranti anche e crudeli, d'una serata a me ignota che al termine di Phèdre aveva impedito ad Albertine di raggiungermi. Vi dico subito che non è per farvi venire, perché a quest'ora mi creerete parecchi problemi, la informai. Oltretutto casco dal sonno, insomma mille complicazioni, però tengo a sottolineare che non c'era alcuna possibilità d'equivoco nella mia lettera. Mi avete risposto che eravate d'accordo. E allora, se non avevate capito, cosa intendavate dire? Ho detto che ero d'accordo, ma non ricordavo più bene su che cosa. Sento che siete seccato, mi dispiace. Sono pentita d'essere andata alla Phèdre. Se avessi saputo che ne sarebbero nate tante storie, aggiunse, come tutte le persone che in colpa per qualcosa fingono di credere che sia per qualcos'altro che le si rimprovera. Phèdre non c'entra per niente col mio disappunto. Sono io che vi ho chiesto di andarci. Allora ce l'avete con me? È un peccato che stasera sia troppo tardi, altrimenti sarei venuta. Ma verrò domani o dopodomani a chiedervi scusa. Ah no, Albertine, vi prego, visto che mi avete fatto perdere una serata, lasciatemi almeno in pace nei prossimi giorni. Non sarò libero prima di 2 o 3 settimane. Sentite, se vi dispiace che restiamo con l'impressione di aver litigato, e forse tutto sommato avete ragione, allora piuttosto, stanchezza per stanchezza, preferisco, dal momento che vi ho aspettata fino a quest'ora e voi siete ancora fuori, che veniate subito qui. Vuol dire che berrò del caffè per svegliarmi. Non si potrebbe rimandare a domani, perché la difficoltà... Registrando queste parole di scusa, dalle quali sembrava emergere che Albertine non intendesse venire, sentii come, al desiderio di rivedere il viso vellutato che, già a Balbec, orientava ciascuna delle mie giornate verso il momento in cui, davanti al mare violetto di settembre, sarei stato vicino a quel fiore roseo, tentasse dolorosamente d'unirsi un elemento ben diverso. Avevo imparato a riconoscerlo a Combray, quel terribile bisogno d'un essere in rapporto a mia madre, e tanto da voler morire se lei mi mandava a dire da Françoise che non sarebbe salita. Un simile sforzo dell'antico sentimento per combinarsi così da fare tutt'uno con l'altro, più recente, che aveva come unico, voluttuoso oggetto la superficie colorata, il roseo incarnato d'un fiore di spiaggia. Questo sforzo spesso finisce semplicemente col creare, nel senso chimico del termine, un corpo nuovo, destinato a durare solo pochi istanti. Almeno per quella sera e per molto tempo ancora, i due elementi rimasero dissociati. Ma già sulla scorta di quelle ultime parole udite al telefono, cominciai a capire che la vita di Albertine era situata, non materialmente certo, a una tale distanza da me che mi sarebbero sempre occorse faticose esplorazioni per metterci sopra le mani, organizzata per di più come certe fortificazioni di campagna e, per maggior sicurezza, del tipo che poi si convenne di chiamare mimetizzate. Albertine, del resto, faceva parte, sebbene a un superiore livello sociale, di quella categoria di persone cui la portinaia si impegna con il fattorino a consegnare la vostra lettera non appena rincaseranno, fino a quando un bel giorno scoprite che lei stessa, la persona incontrata altrove e alla quale vi siete permessi di scrivere, è la portinaia. Abita veramente, insomma, all'indirizzo che vi ha dato, ma in portineria. E d'altronde l'indirizzo è quello di una piccola casa d'appuntamenti, di cui la persona in questione, oltre che portinaia, è anche tenutaria. Oppure da, come suo, un indirizzo dove è conosciuta da complici che non vi riveleranno il suo segreto, da dove le si faranno avere le vostre lettere, ma dove lei non abita, dove tutto al più ha lasciato qualcosa di suo. Esistenze a 5 o 6 risvolti, di modo che, quando vorrete vedere quella donna o avere notizie di lei, vi capiterà sempre di bussare troppo a destra o troppo a sinistra, o troppo avanti o troppo indietro, e per mesi, per anni, potrete ignorare tutto. Nel caso di Albertine, sentivo che non avrei mai saputo nulla, che non sarei mai riuscito a districarmi nel molteplice intreccio dei dettagli reali e dei dati ingannevoli, e che sarebbe stato così sempre, a meno di rinchiuderla in prigione, ma si evade, sino alla fine. Quella sera, tale convinzione non mi trasmise che un'inquietudine nella quale, tuttavia, sentivo fremere come un preludio di lunghe sofferenze. «Ma no», replicai, «ve l'ho già detto, non sarò libero prima di 3 settimane e domani non più d'un altro giorno». «Beh, allora cercherò di fare in fretta. È seccante perché sono da un'amica che...» Non aveva creduto, lo sentivo, che avrei accettato la sua proposta di venire, la quale proposta non era dunque sincera, e io manovravo per metterla con le spalle al muro. «Che cosa volete che mi importi della vostra amica? Che veniate oppure no è affar vostro, non sono io a chiedervelo, me l'avete proposto voi. Non arrabbiatevi, salto su un fiacre e sono da voi fra 10 minuti».